Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Emergenza Covid, da oggi in vigore le nuove misure Conte, il contagio si estende in modo preoccupante, Ricciardi, necessari dei lockdown mirati. Sindaci in rivolta per la norma sul coprifuoco, responsabilità scaricata su di noi, poi la precisazione, il potere di chiudere le aree a rischio sarà condiviso coi prefetti. Superati intanto 40 milioni di contagi al mondo, in Europa, Belgio verso il coprifuoco, a Teheran annunciato un lockdown totale. Italiani sempre più digitali nel rapporto Auditel Censis, ma solo 3 milioni e mezzo le famiglie che sono senza collegamento. Buongiorno ad Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. Dunque, dopo una lunga trattativa tra ministri, regioni e comitato tecnico scientifico, ieri sera il governo ha trovato una sintesi, il presidente del Consiglio Conte ha illustrato il nuovo DPCM che prevede non molte novità in realtà, in particolare rimanda ai comuni la possibilità di chiudere dopo le 21 le zone a rischio assembramento. Il consulente del ministro Speranza però, Walter Ricciardi, ancora oggi conferma che esiste all'interno del governo una linea più rigorosa e torna a dire che alcuni lockdown mirati sarebbero necessari da subito. Partiamo da qua. Col nuovo DPCM lo Stato non abbandona i comuni né li investe di responsabilità impropria. I primi cittadini saranno supportati in tutto dai prefetti. Lo ha precisato in mattinata il Viminale alla luce delle aspre proteste dei sindaci che si erano sentiti investiti dalla responsabilità di decidere autonomamente un eventuale coprifuoco. Secondo una prima bozza del DPCM, infatti, i primi cittadini avrebbero potuto disporre la chiusura al pubblico dopo le 21 di vie o piazze in caso di situazioni di assembramento. Riferimento ai sindaci che in seguito alle polemiche è poi stato tolto. Non è previsto che la polizia locale si occupi di Covid, abbiamo considerato una scorrettezza istituzionale approvare una norma di cui non si era discusso, aveva dichiarato il presidente dell'ANCI Antonio De Caro parlando di un governo scaricabarile. Sulla chiusura di strade e piazze i sindaci non verranno lasciati soli, hanno assicurato i governatori di Puglia e Piemonte, regione quest'ultima, come annunciato da Alberto Cirio, che ha deciso di effettuare un'azione di controllo a campione ai varchi di frontiera con la Francia. Le misure del nuovo DPCM in vigore da oggi saranno valide fino al 13 novembre, con l'eccezione delle norme sulla scuola, che entreranno in vigore mercoledì. Il tutto nel giorno in cui Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, ha parlato dell'urgenza di mettere in atto lockdown mirati subito, senza aspettare l'arrivo di Natale. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poco fa dall'assemblea dell'ANIA è tornato a parlare il presidente del Consiglio Conte. Andiamo in diretta, in collegamento con Alessandra Schepisi. Buongiorno Alessandra. Sì, buongiorno. Abbiamo esteso l'intensa rete di protezione per dare una risposta sanitaria efficace e proteggere il nostro tessuto sociale. Anche all'assemblea dell'ANIA il premier Conte difende il nuovo DPCM parlando di curva dei contagi in preoccupante risalita. Quanto all'aspetto economico stiamo lavorando, assicura il premier, per attutire le ripercussioni dell'improvvisa fase recessiva e garantiremo un forte sostegno all'occupazione. Una pandemia che rappresenta, a suo dire, uno spartiacque anche a livello europeo. Sentiamo la sua voce. Il governo ha compreso la portata storica dello shock e ha lavorato con tenacia affinché anche l'Europa ne prendesse atto, sino in fondo cambiasse passo. E questo è avvenuto e quindi è una svolta importante che segna anche il futuro della vita dell'Unione Europea. E dopo la bocciatura di ieri, nessun accenno invece oggi al MES, al centro in queste ore di un acceso dibattito politico, soprattutto all'interno della maggioranza. Rispondendo ad una domanda in conferenza stampa, Conte ieri aveva infatti detto che i 37 miliardi di prestiti per la sanità che l'Italia potrebbe prendere dall'Europa non sono una panacea, che per ridurre il debito servirebbero nuove tasse e tagli di spesa, una presa di posizione che ha irritato non poco il PD. Credo che un tema come il MES, ha detto Zingaretti, vada affrontato nelle sedi opportune, non come una battuta in conferenza stampa, mentre per Italia Viva si tratta di parole intrise di banalità e demagogia. Per Renzi dire no al MES è un grave errore politico e un danno per gli italiani. Ed a Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi. E sul nodo della movida, su chi deve decidere, i sindaci, i prefetti, la eventuale chiusura delle zone a rischio di assembramento nelle città, torneremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno. Intanto sentiamo l'intervista a questo proposito ad Aldo Cursano, vicepresidente della FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, perché gli operatori della ristorazione sono soddisfatti a metà. Per i ristoranti non cambia molto, per i bar invece proprio la impossibilità di vendere dopo le 18 se non a persone che sono sedute all'interno dei locali creerà sicuramente qualche contraccolpo economico. Sentiamo Cursano del FIPE. C'è qualche luce ma molte molte ombre, si salva in qualche modo con qualche condizione la ristorazione, però si mette in ginocchio il comparto bar, il comparto locali serali, si uccide l'intrattenimento e il divertimento e soprattutto i locali serali. Quindi è un provvedimento che punta sul distanziamento dei tavoli e delle persone, questo ripeto comporta degli effetti estremamente comunque pesanti, perché anche il ricorso allo smart working indebolisce ancora di più l'economia giornaliera e quindi occorre provvedimenti compensativi, perché ci sono comparti che rischiano davvero di scomparire e con essi la storia e i sacrifici di una vita. Tra le novità del DPCM, quelle relative allo sport, dallo sport amatoriale fino a palestre e piscine, sentiamo. Una settimana di tempo per palestre e piscine per adeguarsi alle norme anti-Covid, altrimenti dovranno chiudere e niente sport amatoriale di squadra. Questa è in sintesi la stretta sulle attività sportive introdotta dal nuovo DPCM in vigore da oggi. Proseguono partite e gare sportive dilettantistiche a livello regionale e nazionale, spiega il ministro dello sport Vincenzo Spadafora su Facebook. Mentre per il livello provinciale, società, associazioni sportive ed enti di promozione proseguiranno gli allenamenti degli sport di squadra, ma in forma individuale. Per fare un esempio, la squadra di una scuola calcio di giovanissimi o pulcini potrà continuare ad allenarsi, ma senza giocare partite. Il nuovo DPCM non coglie di sorpresa le palestre e i centri sportivi più grandi e strutturati, ma diventa un ultimatum per tutte quelle associazioni sportive dilettantistiche, circa 100.000, che entro una settimana dovranno adeguarsi ai protocolli di sicurezza. Gianfranco Mazzia, direttore ANIF, Associazione Nazionale Impianti Fitness e Sport di Confindustria. Ad esempio gli oratori che fanno un'attività meritoria perché tolgono i ragazzini dalla strada, e vorrei vedere come possono riuscire a realizzare questi protocolli. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora facciamo il punto anche sull'andamento dell'epidemia a livello globale, sentiamo. Il focolaio di coronavirus alla Casa Bianca avrebbe potuto essere evitato ed è la prova che la pandemia non è una bufala. Lo ha detto ieri l'immunologo membro della Task Force contro il Covid, Anthony Fauci. Per il presidente, tuttavia, l'influenza è più letale del virus. Parole quelle di Trump censurate da Twitter e Facebook perché fonte di una informazione potenzialmente dannosa. I casi nel paese hanno superato quota 7,5 milioni, con 210.886 decessi. Particolarmente difficile la situazione a New York, dove il governatore Cuomo ha disposto la chiusura delle attività non essenziali e imposto nuove restrizioni. Resta critica anche la situazione in Brasile, dove i contagi stanno ormai toccando quota 5 milioni, e in India con 6,75 milioni di contagi. In Europa, nuova stretta a Bruxelles. Caffè e bar chiuderanno da domani mattina per un mese. Resteranno invece aperti i ristoranti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Cina l'economia si conferma in ripresa dopo il periodo del blocco dovuto alla pandemia. Nel terzo trimestre il PIL cinese è infatti cresciuto del 4,9%, non solo perché anche altri paesi hanno avuto un terzo trimestre positivo, ma secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale la Cina è il solo paese indicato in crescita per l'anno 2020 a più 1,9%. Adesso torniamo in Italia, andiamo a Roma per le candidature alle prossime elezioni comunali con una conferma, quella di Carlo Calenda che scende in campo, e poi invece c'è anche una smentita, quella di Massimo Giletti che ha detto che non si presenterà. Carlo Calenda scende in campo nella corsa al Campidoglio. Il leader di Azione auspica un largo consenso e guarda innanzitutto al Partito Democratico, ma con un accordo politico, non con primarie di coalizione, perché dice: con l'emergenza sanitaria in corso non possiamo pensare che la gente esca di casa. Con i Dem c'è convergenza sulle critiche alla gestione di Virginia Raggi. I mali di Roma vengono da lontano, ma con lei e con il Movimento 5 Stelle è peggiorato tutto, attacca Calenda. Nel PD il confronto sulla scelta del candidato è ancora in corso, mentre i pentastellati sembrerebbero orientati a puntare ancora sull'attuale prima cittadina. Sul fronte del centrodestra, invece, il leader della Lega, Matteo Salvini, in vista del vertice di domani, conferma che il candidato unitario della coalizione non sarà un politico, ma un esponente della società civile. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Una notizia di cronaca che viene dalla Campania, da Napoli: far pagare le tasse anche ai criminali. È questa l'iniziativa della Guardia di Finanza di Napoli, che ha recuperato quasi 400.000 euro di tassazione nei confronti di 17 soggetti già sottoposti a misure di arresto, soggetti che avevano accumulato 1,5 milioni di proventi attraverso l'usura. Era il rapporto Auditel Censis presentato oggi in Senato sul rapporto tra gli italiani e le nuove tecnologie digitali. Italiani sempre più connessi a internet nell'era Covid, soddisfatti di esserlo, ma aumentano i rischi di disuguaglianza sociale. Le famiglie italiane sono sempre più connesse a internet, l'88%, e con l'emergenza Covid è aumentato l'uso della rete per studiare, lavorare da casa, fare acquisti online, usare la TV on demand, attività svolte per la prima volta da 8 milioni di famiglie. Lo studio Auditel Censis rivela che gli italiani sono in gran parte soddisfatti di questa rivoluzione digitale forzata, ma avvisa dei rischi di disuguaglianza. 3 milioni e mezzo di famiglie non hanno internet, e in quelle di livello socio-economico basso, il 15% del totale, in tre quarti dei casi non ci sono PC o tablet, la media è il 25%, e solo il 20% ha la banda larga, la media è il 55%. C'è poi un rischio più sottile, dice Giuseppe De Rita, Censis. La mia impressione è che si stia andando verso una logica di comunicazione che impone il non dialogo. Il secondo lockdown ha instillato incertezza, più del primo. Se c'è un pericolo in questo paese, è il pericolo che la gente voglia andare in letargo. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. 13 e 12 minuti, siamo allo sport e il calcio. Ieri giornata di Serie A che si chiude tra l'altro stasera con l'ultimo posticipo. Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao Alessio, buongiorno. Come è andata ieri? Come è andata ieri? Beh, ieri insomma le partite più importanti e più grandi le abbiamo viste nel sabato del Villaggio, sì, con il derby di Milano, con il Napoli che ha strabattuto l'Atalanta, con la Juventus che ha faticato a Crotone, la Lazio che ha perso un altro treno. Ieri la giornata si è chiusa con la crisi del Torino, che rimane inchiodato a 0 punti e si interroga, con il Sassuolo che continua a volare fino al secondo posto della classifica e promette di non fermarsi, con la Roma che si è confermata squadra dalle grandi potenzialità offensive in un weekend in cui sono stati segnati una valanga di gol, in quello che qualcuno comincia a definire una nuova tendenza, non so, forse è un po' presto, però certamente ci stiamo abbastanza divertendo. Stasera si chiude la giornata e poi ci tuffiamo nelle Coppe Europee, perché per 3 settimane chi è impegnato in Europa avrà il doppio impegno, campionato e coppa, quindi si giocherà parecchio, si giocherà parecchio, molto sì. Bene, grazie Carlo Genta, ti ritroviamo dopo il GR delle 14, tutti convocati, il pomeriggio sportivo di Radio 24. Noi facciamo un piccolo break dopo la sintesi della giornata, torniamo tra poco con gli approfondimenti. Come anticipato, parleremo ancora della questione del coprifuoco nelle aree della Movida, chi deve stabilirlo, sindaci, no, è stata poi una nota del Viminale a precisare, toccherà d'intesa con i prefetti, insomma, però sentiremo la voce dei sindaci con il presidente dell'ANCI De Caro. 349-238-6666, a tra poco. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi, sindaci in rivolta per la norma sul coprifuoco, responsabilità scaricata su di noi, poi la precisazione, il potere di chiudere le aree a rischio sarà condiviso coi prefetti. Da oggi in vigore il nuovo DPCM, regole più stringenti per bar e ristoranti, didattica a distanza per le superiori. Secondo Ricciardi però sono necessari lockdown mirati. In Cina il PIL torna a crescere, più 4,9% nel terzo trimestre, positiva la stima anche per fine anno. Italiani sempre più digitali nel rapporto Auditel Censis, ma sono 3 milioni e mezzo le famiglie senza collegamento. Alle 13 e 17 minuti, cari ascoltatori, proviamo a fare il punto su questo nuovo DPCM presentato ieri sera da Conte dopo una lunga trattativa tra ministri, regioni e CTS. Non ci sono sostanziali e importanti novità. Vediamo: bar e ristoranti chiusi a mezzanotte, ma era già così del resto. Soltanto cambia il servizio a partire dalle 18 in poi, e riguarda soprattutto i bar, si potranno servire solo clienti seduti. Ci sarà un potere locale di chiudere le aree della movida a rischio assembramenti, su questo decideranno i sindaci, è stato specificato stamattina, di concerto con i prefetti. Per quanto riguarda gli altri capitoli, le scuole, non ci sono novità se non l'invito per le superiori ad aumentare la didattica a distanza alternata alla scuola in presenza e anche a favorire, sempre per le scuole superiori, orari di ingresso e uscita scaglionati, e anche qui si rimanda però all'autonomia delle singole scuole. Lo smart working resta consigliato ma non obbligatorio, stop alle sagre, stop anche alle partite negli sport amatoriali di contatto che riguardano per esempio i bambini che praticano sport. Veniamo alle critiche che sono state fatte nell'immediata approvazione di questo DPCM. Molti commentatori sottolineano che la montagna ha partorito un topolino, vedono il rischio attendismo da parte del governo. La domanda è: nei mesi di relativa calma si poteva fare di più per attrezzare il paese a questa sfida? E allora, ricapitoliamo alcune delle principali critiche di questi giorni. Sulle scuole si è perso molto tempo, lo sappiamo, i banchi monoposto non sono ancora arrivati, ci sono ancora importanti vuoti d'organico. Sui trasporti non è stato fatto nessun investimento per rinforzarli, se non realtà locali a livello locale. Sul sistema tamponi e tracciamento c'è stato un incremento dai 30.000 tamponi di marzo fino ai 50-60.000 di maggio fino ai 150.000 tamponi di questi giorni, ma già adesso non è più sufficiente, lo dicono voci ufficiali, lo dice il direttore dell'ATS Milano De Micheli. Si poteva sposare il piano Crisanti, per esempio. Sulla rete ospedaliera, a dispetto di quello che ha detto ieri sera Conte, che sono state raddoppiate terapie intensive e subintensive, in realtà mancano ancora all'appello metà dei nuovi posti in terapia intensiva, oltre 1.600 promessi e non realizzati. Lo ha detto anche il commissario Arcuri, solo 3 regioni hanno raggiunto l'obiettivo di 14 posti in terapia intensiva ogni 100.000 abitanti. Anche sulla medicina territoriale ci sono differenze da regione a regione, con ritardi, attese, incertezze sul fare tamponi, sul ricevere le terapie, se si è al proprio domicilio. Una domanda la facciamo anche noi a questo punto, ed è questa: perché ieri sera Conte non ha ammesso alcune di queste difficoltà e ritardi e non ha fatto almeno un appello a scaricare Immuni, la app di cui si sono perse sostanzialmente le tracce? È stata scaricata da 8 milioni di persone, sono ancora troppo poche. Avevamo un appuntamento telefonico con il presidente dell'ANCI, Antonio De Caro, per approfondire l'aspetto relativo al potere di chiudere le aree a rischio assembramento, le cosiddette zone della movida, perché c'è stata una forte polemica dei sindaci questa mattina. Poi il Viminale ha, con una nota, precisato che questo potere sarà condiviso con i prefetti, quindi ancora una volta con il governo. De Caro non risponde. Adesso vi proponiamo una intervista invece ad Antonello Giannelli, il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, che commenta le decisioni relativamente alla scuola. È stato scongiurato il rischio di chiusura delle scuole e si è invece, diciamo, lasciata l'autonomia dei singoli istituti il fatto di ricorrere a più didattica a distanza nelle scuole superiori. Sentiamo Giannelli al microfono di Maria Piera Cecci. condivisibile che sia stato riaffermato il valore della didattica in presenza. Dopodiché le forme di flessibilità di cui si parla riguardano soltanto gli studenti più grandi. Quindi per questi studenti è previsto un ingresso a partire dalle 9, questo è accettabile. C'è questa possibilità di integrare la didattica in presenza con quella digitale. Anche questo era previsto dalle linee guida del Ministero e peraltro già si sta facendo in molte scuole. La possibilità dei turni pomeridiani chiaramente esisteva, come si diceva già nell'ordinamento. Credo che la cosa più importante sia che venga lasciata alla decisione delle scuole autonome. Ipotizzo che se si dovessero prolungare gli orari scolastici con turni pomeridiani servirebbe un organico maggiorato dal punto di vista dei bidelli, dei collaboratori scolastici, per tenere la scuola aperta più a lungo. I vostri messaggi, cari ascoltatori, al 349-238-6666, se volete commentare le notizie che avete appena sentito. Ci sono molti commenti rispetto al tema di Immuni. L'app Immuni non funziona, per comunicare un positivo ci vogliono 10 giorni, scrive un ascoltatore. Magari più avanti leggiamo ancora qualche altro messaggio. Adesso, in attesa sempre forse di riuscire a collegarci con De Caro, il presidente dell'ANCI, sindaco di Bari, vi proponiamo un altro approfondimento che è relativo a una notizia di oggi, un rapporto dell'OCSE su una delle conseguenze dell'emergenza coronavirus che, secondo l'OCSE, mette a rischio anche l'integrazione dei migranti nei paesi d'arrivo, un'integrazione essenziale anche per avere una ripresa economica più forte. Sentiamo. La pandemia mette in pericolo le migrazioni e i progressi realizzati in materia di integrazione, è l'avvertimento che arriva dall'OCSE. Migrants are highly exposed to the health impacts of the pandemic. I migranti sono altamente esposti all'impatto del Covid, ha spiegato il segretario generale dell'OCSE, Angel Gurria, che ha sottolineato come l'adozione di politiche appropriate in materia di migrazione e integrazione sarà essenziale in avvenire per garantire una ripresa forte e realmente inclusiva. Migranti in prima linea durante questa crisi, rappresentando nei paesi OCSE un medico su 4 e un infermiere su 6. Their contribution is also important in other sectors, such as transport and warehousing, security, the cleaning industry, manufacturing of food products, IT services. E il loro contributo è importante anche in altri settori. La migrazione, ridisegnata dal Covid, per l'OCSE continuerà a svolgere un ruolo fondamentale sulla crescita e per il mercato del lavoro. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Eccoci qua, dicevamo i vostri messaggi, cari ascoltatori, al 349-238-6666. Allora, vediamo velocemente per quanto riguarda la questione tra sindaci e governo sulla responsabilità di decidere la chiusura delle aree a rischio. Un ascoltatore dice: devono decidere a Roma sugli assembramenti che avvengono a Monza? E questa è una domanda retorica. Naturalmente questa è la posizione dei sindaci, che bisogna chiarire però una cosa: è naturale che, detta così, sia logico che dovrebbero decidere a Monza sugli assembramenti di Monza. Quello che hanno detto alcuni sindaci, purtroppo non riusciamo questa mattina a parlare con De Caro, è che a fronte di una mancata autonomia, per esempio, di possibilità di spesa per assumere personale per la polizia municipale, per esempio, che aiuterebbe a fare questi controlli, adesso si chiede ai sindaci di fare queste chiusure, che poi devono anche essere controllate, e in alcuni casi non si hanno le risorse. L'altro tema è che il coprifuoco è una misura estrema e forse sarebbe stato più logico che lo decidesse il governo. Però è vero quello che dice l'ascoltatore, perché in molti comuni piccoli se ne ha parlato poco, nei prossimi giorni magari ne parleremo noi, sono state decise zone rosse e veri e propri lockdown locali in base a situazioni, a focolai particolari, per cui è vero che i comuni possono tranquillamente decidere e fare da questo punto di vista. Un altro ascoltatore scrive: è vero che si poteva fare di più, ma anche si potevano fare meno sparate a vuoto da parte di Radio 24. Non so a chi si riferisce, a che cosa, siate seri, grazie. Vabbè, c'è una critica sempre ai giornali e ai giornalisti, ci sta assolutamente. Direi che ci fermiamo qua, perché De Caro non riusciamo a contattarlo. Allora andiamo sulla informazione dai mercati finanziari, la pubblicità, poi torniamo naturalmente con Effetto Mondo. Giulia Crivelli, tra poco. Quali saranno i lavori più richiesti nel futuro? Come ci sono arrivati e dove si sono formati quelli che li svolgono? Ve lo racconterò ogni domenica insieme ai protagonisti del futuro, testimonials e formatori, per capire cosa fanno e quanto guadagnano figure come il Digital Communication Specialist, l'ingegnere spaziale 4.0, il Menu Strategist o il Wedding Marketing Strategist. Queste sono figure che il mercato e le imprese ancora oggi non trovano facilmente, perché non basta sapere usare le nuove tecnologie, ma bisogna sfruttarle per creare i lavori di domani. Sono Anna Marino e vi aspetto ogni domenica dopo il GR delle 8, naturalmente qui su Radio 24. E in podcast su radio24.it. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Emergenza Covid, da oggi in vigore le nuove misure Conte, il contagio si estende in modo preoccupante, Ricciardi, necessari dei lockdown mirati. Sindaci in rivolta per la norma sul coprifuoco, responsabilità scaricata su di noi. Poi il Viminale precisa, il potere di chiudere le aree a rischio assembramento sarà condiviso coi prefetti. Superati intanto 40 milioni di contagi al mondo, in Europa Belgio verso il coprifuoco, a Teheran annunciato un lockdown totale. Il punto di Alberto Orioli. Non bisogna sottovalutare l'allarme lanciato dal sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, area PD, e dal presidente della regione Veneto, Luca Zaia, area Lega. Il DPCM che demanda alle istituzioni locali la scelta se applicare o meno il coprifuoco era poco chiaro e non indicava esplicitamente a chi sarebbero spettate le decisioni, se i sindaci, i prefetti o i presidenti delle regioni. Ci è voluta una precisazione del Viminale che ha spiegato come entrino in campo i comitati provinciali per l'ordine pubblico. Comunque la sensazione del dopo conferenza stampa di ieri è la confusione e lo scaricabarile politico, affidato, diciamo la verità, a una nuvola di parole. Sono svaporate le autocelebrazioni della stampa mondiale sulla capacità italiana nel gestire bene la crisi, sono sfumati i cronoprogrammi con le indicazioni dei tempi e degli obiettivi di ampliamento dei reparti di terapia intensiva e subintensiva. L'emergenza esiste e resiste. Siamo al decimo DPCM, vale a dire decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che supera la discussione parlamentare e consente di governare direttamente da Palazzo Chigi, senza i normali check and balance della democrazia. Diciamo la verità, sarebbe grave se il virus avesse contagiato anche il sistema democratico, perché ciò che è peggio, i cittadini non se ne sarebbero nemmeno accorti. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.